è necessario anzitutto giungere ad una riforma del sistema monetario internazionale. L'obiettivo deve essere quello di riconoscere nella moneta un bene comune dell'umanità. La moneta deve essere considerata come un rapporto sociale, un rapporto collettivo che si fonda sulla fiducia e la cooperazione tra le persone. Un simile approccio rinvia a concezioni istituzionali della moneta, che insistono sugli strumenti che permettono di aumentare la cooperazione e la fiducia, per esempio un bilancio comune, una politica monetaria esterna, una supervisione della finanza, un'armonizzazione fiscale, un'unificazione dei debiti pubblici. È in relazione a questi elementi di natura istituzionale che si tratta di valutare la forza e la stabilità di una zona monetaria.